Basta. Viaggio nel nuovo contesto digitale di Pepe Moder. Di nuovo insieme con una nuova puntata di Radio Next. Sono Pepe Moder e oggi parleremo di strumenti di marketing digitali per incrementare il business dell'azienda. Lo faremo presto con un'imprenditrice che parlerà con noi, ci racconterà la sua esperienza, ma prima di tutto abbiamo bisogno di ascoltare bene quale sarà il tema della puntata. Il CRM, o Customer Relationship Management, è una disciplina del marketing che definisce l'utilizzo strategico di informazioni, processi, tecnologie e risorse per gestire le relazioni dei clienti con l'azienda lungo tutto il ciclo di vita del cliente. Protagonisti indiscussi in azienda, ma non esclusivi, sono il marketing, le vendite, la logistica e il servizio clienti. Due sono le particolarità significative che lo distinguono dalle attività correnti di marketing. Il CRM si focalizza sull'impatto strategico piuttosto che su quello operativo e i benefici sono generalmente di lungo periodo, a differenza di attività di marketing e comunicazione tradizionali che vedono nel breve medio periodo la raccolta dei frutti. Ed eccoci qua, allora andremo a parlare oggi di Customer Relationship Management, una parola che tanti di voi imprenditori, professionisti, manager avete sentito, alcuni di voi l'hanno implementata, hanno provato a implementarla con successi o magari anche con insuccessi, ci sta anche, si impara anche da quello. Ecco, vogliamo parlarne nell'ottica della trasformazione digitale, ossia di questo mondo in cui i dati, le informazioni diventano la moneta di scambio dei mercati all'interno dei quali le aziende competono. Ne parliamo oggi con Chiara Talenti, imprenditrice insieme alla sorella e direttrice marketing e comunicazione di Rintal, azienda basata a Forlì, quindi un'azienda piccola ma fantastica, meravigliosa, che ha incominciato a investire sul CRM e ce lo facciamo raccontare da Chiara Talenti. Buongiorno Chiara. Buongiorno a te Pepe. Allora Chiara, intanto ci dici due parole sulla tua azienda. Beh, Rintal sappiamo tutti o in tanti sanno che produce scale per interni e per esterni. Due parole proprio sull'azienda? Dunque Rintal è stata fondata nel 74 da mio padre e diciamo che nel corso degli anni sicuramente la crescita è stata esponenziale, anche perché il concetto di scala inizialmente era semplicemente un prodotto per salire al piano superiore. Oggi la scala è molto diversa, è diventato un complemento d'arredo e quindi è molto importante tenere conto anche di altri aspetti, non più solo legati all'edilizia, ma anche all'arredamento e al design. Da cosa nasce l'idea, Chiara, di creare una relazione con il cliente in un mercato così particolare come quello dell'edilizia e dell'arredamento? L'idea nasce dal fatto che oggi anche nel settore dell'edilizia è assolutamente essenziale conoscere i bisogni dei clienti per offrire una proposta adeguata. E quindi per Rintal, che opera nel settore delle finiture per l'edilizia, è importante creare una relazione con il cliente, quindi comprendere le sue esigenze di arredo, di stile, oltre che chiaramente i vincoli strutturali e abitativi, per poter offrire delle soluzioni personalizzate e su misura. Senti, quali sono le informazioni che voi state raccogliendo sul vostro cliente? Al potenziale cliente che entra in contatto con noi chiediamo non solo i dati personali, ma soprattutto effettuiamo una prima intervista per capire quelle che sono le esigenze estetiche, progettuali e anche il budget a disposizione. Infatti sono questi dati fondamentali per poter formulare un'offerta coerente e in linea con le aspettative del cliente. Senti, chi gliela fa l'intervista? L'intervista viene effettuata dai nostri tecnici commerciali, i quali ricevono dei primi dati di contatto dall'ufficio marketing e poi appunto hanno il compito di chiamare effettivamente il potenziale. Quindi chiamano al telefono. E tutti questi dati dove vanno a finire? Tutti questi dati vengono utilizzati dagli agenti per aggiornare quella che è la scheda lead all'interno del CRM. Beh, mi tocca chiederti allora che cos'è una lead? Allora, una lead è un potenziale cliente di cui si conoscono Inizialmente solo alcune informazioni principali, quindi il nome, il cognome, l'email e il recapito telefonico, che però sono assolutamente essenziali per un primo contatto. Diciamo quindi che la lead è un potenziale cliente che con i suoi comportamenti ha manifestato un interesse all'acquisto di un determinato prodotto o servizio. È corretto? Esattamente. In effetti la lead è un potenziale cliente in fase embrionale. Embrionale. Appunto, di cui si sa ancora poco, ma che appunto dopo un approfondimento con l'intervista dell'agente riesce a far delineare i propri bisogni, i propri tratti necessari per poi poter formulare un'offerta adeguata. Bene, allora abbiamo detto tante volte e continueremo a ripeterlo sia nella prima puntata che oggi che in tutte le puntate successive che la tecnologia non è l'elemento differenziante, però la tecnologia serve, quindi ci serve un software per il CRM in modo tale che questi dati vengano organizzati, vengano conservati, possano essere consultati, ma soprattutto possano essere interpretati in modo tale da poter poi diventare uno strumento efficace a supporto del business. Voi quale strumento, quale software utilizzate? Sugar CRM è un esempio, insieme a Zoho, me ne dico un altro, di piattaforme open source, il che significa, per chi ancora non lo sapesse, che sono software che tendenzialmente non hanno un costo di licenza. Ci sono software di CRM con dei costi drammaticamente alti, o enormemente alti ovviamente, esistono automobili che costano 15.000 euro, automobili che costano 150.000 euro, ma sono tutte e due automobili e ci permettono di muoverci da un punto A a un punto B. Non saremo così veloci come con l'auto da 150.000 euro, però sicuramente riusciremo a fare delle cose importanti per il nostro business. Quindi, cari imprenditori, cari manager, non avete scuse, avete la necessità di imparare a capire che cosa c'è dietro questa offerta di software open source. Chiara, in quanto tempo vi aspettate un ritorno su questo investimento? Allora, sicuramente i primi risultati li abbiamo già visti, nel senso che sicuramente ora possiamo accedere ai dati in una maniera molto più strutturata. Sicuramente però direi che un anno è il tempo necessario più che altro per far sì che tutti i dipartimenti, sia i dipartimenti aziendali che la rete vendita, diventino un pochino più abituati a utilizzare lo strumento e quindi siano in grado di appunto utilizzarlo al meglio per tutte quelle che sono le sue funzionalità. Hai toccato un tema importante, le reti di vendita, che sono alla fine coloro i quali ci permettono di fare il budget in azienda. Se il venditore non vende, alla fine del mese non si raggiunge il risultato e alla fine dell'anno abbiamo dei seri problemi. Quali sono, nella vostra esperienza, le reazioni che avete visto, che avete vissuto con la vostra rete di vendita, con l'introduzione degli strumenti di CRM? Perché, te lo chiedo perché, normalmente è uno degli ostacoli che spesso vengono frapposti da parte dell'imprenditore, da parte del management, i quali non vogliono affrontare questo cambiamento perché richiede ovviamente il dover convincere la rete di vendita a utilizzare strumenti nuovi e quindi a cambiare un po' il modo di lavorare. Sì, anche nel nostro caso è stato in questo modo, nel senso che inizialmente abbiamo notato una certa diffidenza da parte della rete vendita, perché l'utilizzo corretto del CRM significava per loro cambiare radicalmente il modo di gestire i contatti e quindi dover abbandonare le liste clienti su Excel, che in realtà, come spesso accade, finiscono con l'essere dimenticate e quindi non sono più aggiornate. Chiaro che grazie alla formazione che abbiamo fatto sono riusciti a comprendere che utilizzando il CRM in maniera corretta effettivamente possono ottimizzare il loro lavoro e quindi avere più tempo per la vendita. La domanda però mi sorge spontanea. Se le reti di vendita hanno capito qual è il valore, ci hanno messo ovviamente il loro tempo, ma hanno capito qual è il valore che una strategia di CRM può dare ai loro risultati e quindi poi ai risultati dell'azienda. Quali altre difficoltà voi avete incontrato nell'implementare questo progetto? Il progetto CRM è nato in realtà a seguito di piccoli fallimenti che ci sono stati nella nostra azienda. Oh, bene, allora questo è un punto che mi sta particolarmente a cuore: imparare dagli sbagli. Io continuo a ripetere, quando lavoro in azienda, quando lavoro con gli imprenditori, continuo a ripetere che chi non fa non sbaglia, e solo sbagliando si può imparare a fare meglio dopo. Mi rincuora sapere che esistono ancora imprenditori che sbagliano e che, pur avendo sbagliato, ricominciano e cercano la soluzione avendo imparato dagli errori precedenti. Scusami, vai avanti. Sì, effettivamente abbiamo avuto esperienze pregresse di implementazioni di altri gestionali e di altri software di CRM, anche se erano sicuramente software molto più semplici, che ci hanno insegnato che per la creazione di strumenti davvero efficaci per tutta l'azienda è fondamentale svolgere un'analisi preventiva molto approfondita, che serve per capire le esigenze dei dipartimenti. Quindi questa volta, avendo imparato dagli errori passati, abbiamo provato per quanto possibile ad evitarli. Certo. Quali sono gli errori che non rifareste? Sicuramente il non può mancare la formazione una volta che il progetto viene lanciato. La formazione continua, perché comunque sia, al di là di una formazione iniziale, soprattutto per la rete vendita è importante avere un riferimento continuo in caso sorgano dei dubbi, e ne sorgono tanti. Senti Chiara, scusami se ti interrompo, però volevo farti una domanda. Quando tu parli di formazione tecnica, cioè come utilizzare lo strumento, o parli di formazione culturale, cioè come utilizzare al meglio quello strumento per il proprio lavoro? Perché sono due cose molto diverse. Certo. Sì, allora la formazione culturale è stata fatta nel momento in cui aziendalmente si era deciso di investire su questo progetto, e quindi abbiamo investito nel coinvolgerci, nello coinvolgere la rete vendita, nello spiegare l'importanza che questo strumento poteva avere per il loro lavoro. È chiaro che la formazione culturale non basta, certo. Ci vuole proprio una formazione tecnica, non è niente di in realtà impossibile. Di trascendentale. Esattamente, semplicemente ci vuole un po' di pazienza e un po' di costanza. Senti, non te l'ho chiesto prima, ma per dare le dimensioni del fenomeno, quanti dipendenti conta Rental? Attualmente siamo una sessantina di dipendenti. Ok, e quante persone lavorano su questo progetto? Ad oggi vi sono due persone, una del dipartimento IT e una del dipartimento marketing, che si occupano della formazione tecnica continua, mentre in una fase iniziale, quindi nella fase iniziale di analisi, abbiamo dedicato una persona per ogni dipartimento aziendale, proprio perché era necessario conoscere e capire approfonditamente le esigenze di tutti i dipartimenti. Quali sono i risultati che avete ottenuto da un punto di vista proprio numerico? Quante lead producete oggi? Oggi produciamo circa 1000 lead al mese, che vengono appunto inoltrate alla rete vendita e che effettua poi il contatto telefonico. Ecco, quindi giusto per fare capire ai nostri interlocutori, attraverso il sito vengono raccolti 1000 profili di persone, nome, cognome, indirizzo email, numero di telefono e altri dati, i quali richiedono di essere ricontattati o perché hanno scaricato un coupon sconto o perché vogliono avere maggiori informazioni, richiedono di essere ricontattati da Rental o per avere maggiori informazioni, quindi o per un vantaggio economico, e a questo punto abbiamo un bacino di circa 11-12 mila potenziali clienti in un anno. Di queste 1000, Chiara, però, quante, perché ci si potrebbe chiedere, vabbè, ma 1000 persone che hanno lasciato nome e cognome, che cavolo significa? Di queste 1000, quante diventano clienti in percentuale? La percentuale si attesta intorno al 35%. Accidenti, questo è un numero estremamente elevato, molto molto elevato. Nella mia esperienza, quando parliamo di grandi numeri e quindi di CRM iperstrutturati, andiamo a parlare del 2, del 3, del 5% in attività, come dire, outbound, quindi dall'azienda verso l'esterno, a martello, picchiando come dei fabbri, si raggiungono come dire, delle percentuali che sfiorano la doppia cifra, ma difficilmente la raggiungono. 35% è veramente tanto, quindi complimenti davvero. Stiamo parlando quindi di 350 clienti su 1000 profili che hanno, su 1000 persone che sono passate sul sito e hanno lasciato i propri dati. Mi sembra un numero straordinariamente importante, ma soprattutto perché non stiamo parlando né di mascara né tantomeno di borse di moda o di scarpe, o stiamo parlando di computer o di iPhone. Stiamo parlando comunque di un oggetto importante, di un oggetto che tendenzialmente richiede comunque la visualizzazione, l'incontro di persona del potenziale acquirente con il venditore, perché lo vuole toccare, lo vuole vedere, vuole capire come starà in casa sua. Ma il fatto che queste 1000 persone siano passate prima sul sito, abbiano lasciato i loro dati per poi venire nello showroom oppure venire nel negozio, è indicatore del fatto che, ancora una volta, se ce ne fosse bisogno, la trasformazione digitale cambia il modo di comportarsi e quindi cambia i percorsi di acquisto e i comportamenti di acquisto delle persone, dei nostri clienti. Chiara, prima di lasciarci, ti faccio un'ultima domanda. Il progetto di CRM adesso come evolverà? Quali sono i prossimi passi? Quello che resta da fare è sicuramente l'implementazione di nuove funzioni legate al social CRM, e quindi diciamo così, poter avere la possibilità di raccogliere i dati su utenti da vari social network e quindi capire meglio qual è il grado di engagement dei clienti, siano questi potenziali o effettivi. E sicuramente un altro aspetto su cui lavorare è quello della marketing automation. Allora, andiamo per ordine. Prima di tutto social CRM, parliamone velocissimamente e poi ci faremo magari una puntata apposta, ma ognuno di noi, ogni volta che frequenta i social media, facendo o non facendo azioni, lascia delle informazioni su se stesso che vanno ad alimentare il proprio profilo, profili che ovviamente Facebook può, tra virgolette, mettere a disposizione dei propri inserzionisti pubblicitari o dei propri investitori. Quindi ci stiamo dicendo che il CRM unitamente, quindi le piattaforme di CRM unitamente a un Facebook piuttosto che un Pinterest, piuttosto che, sto parlando di varie piattaforme di social media, ci può aiutare a individuare meglio chi sono i nostri clienti. Entreremo in profondità su quella che viene definita la clusterizzazione attraverso la data analysis e la behavioral, quindi l'analisi comportamentale delle persone. In questo caso ci basta considerare e capire il fatto che riusciamo ad unire tante informazioni che noi abbiamo raccolto e che sono a disposizione all'esterno. Invece la marketing automation, Chiara, in che cosa consiste? Consiste nella automazione di alcuni processi di marketing che diversamente sarebbero svolti in maniera manuale e quindi in maniera molto meno efficiente. Un esempio potrebbe essere l'automazione di campagne di email marketing. E quindi grazie a determinati software di marketing automation che si possono connettere con il CRM è possibile pianificare in maniera preventiva quale email inviare ad un utente che compie una specifica azione una volta che ha ricevuto una prima email, e quindi creare un flusso di comunicazione automatizzata e che in questo senso ti consente di risparmiare tempo. Chiara, ti ringrazio tantissimo per il tuo intervento, è stato molto utile e illuminante a tratti. Io quindi ringrazio Chiara Talenti, imprenditrice e direttrice marketing e comunicazione di Rintal Scale, piccola e media piccola impresa italiana, un piccolo gioiello da tenere d'occhio. Chiara, tu però ci hai fatto anche un piccolo regalo, che, giustamente insomma dal tuo punto di vista, per tutti i nostri interlocutori, per tutti i nostri ascoltatori, un cadeau che si può raggiungere alla pagina www.rintal.com/radio24, dove i nostri interlocutori potranno trovare un buono sconto per acquistare una scala. È a tempo, quindi avete poco tempo per poterlo fare. Io ti ringrazio a nome ovviamente degli ascoltatori e a nome della radio per questa cortesia. Spero di averti presto ancora qui. Assolutamente, grazie a voi. E allora, grazie a tutti quanti per questa bella chiacchierata. Abbiamo parlato oggi di CRM, ci ascolteremo ancora tra una settimana in podcast tutto l'intervento e l'intervista a Chiara Talenti. Vi ricordo la mail del programma radionext@radio24.it, alla quale fare le vostre domande, lanciare le vostre provocazioni, mandare i vostri commenti a me o anche a Chiara Talenti, alla quale magari chiederemo di rispondere direttamente. Per quanto ci riguarda, ci vediamo tra una settimana. Buon viaggio digitale.